Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Regalare i biglietti di Expo a chi si tessera al Partito Democratico. È la proposta della disperazione. Se siamo ridotti a questo, non so se in allegato c'è anche una bottiglia del vino di D'Alema. Questo è un Salvini, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sarcastico, che critica questa idea del PD milanese di favorire, insomma, il tesseramento, di incentivare il tesseramento dei giovani under 30 al Partito Democratico, regalando anche i biglietti per l'Expo. In realtà è stata un po' presa in giro questa cosa sui social network, qui e là, e questo è il commento di Salvini, che in realtà oggi ha detto ben altre cose. Ha detto che raderebbe al suolo i campi Rom, proprio una giornata mondiale, internazionale dei nomadi, dei Rom e dei Sinti, e questo ha scatenato una serie di polemiche. C'è stata la replica della Presidente della Camera Boldrini, che aveva accolto proprio oggi un'associazione non governativa senza scopo di lucro, l'associazione 21 luglio, che favorisce insomma l'integrazione, la salvaguardia dei Rom in Italia, e poi anche la reazione del Vaticano, che ha detto quelle di Salvini sono frasi assurde e stupide. Tutto ciò appunto ha movimentato il dibattito politico oggi, e su questo vi chiedo, se volete intervenire direttamente sempre con i vostri canali privilegiati qui a Effetto Notte, che sono il numero per gli sms, che è il 349 238 6666, e poi come sempre, ma lo sapete da tempo, la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi. Potete aderire senza indugio a questa pagina e potete naturalmente fare le vostre riflessioni oggi, in particolare su questo argomento. Cosa ne pensate di questo botta e risposta così duro, così polemico su questo argomento, e anche che riflessioni avete fatto in genere su questo tema? Dopodiché parleremo anche dell'emergenza dei profughi in Siria. Si parla di 3.500 bambini che potrebbero essere ostaggio dell'ISIS, senza cibo, accerchiati dai jihadisti in Siria. Poi ci occuperemo anche di una nuova sentenza di conferma, in realtà, della Corte d'Appello di Palermo, che è arrivata a Ustica. Questo mistero che dura da 35 anni, questa nebbia fittissima che ogni tanto sembra che si squarci. Ci sono vari temi, insomma, ci occuperemo anche di calcio. Vedo Napoli-Lazio in questo momento, per il momento 0-0, ma man mano aggiorneremo i tifosi, anche chi per curiosità vuol sapere come sta andando la partita. Intanto, come sempre, all'inizio cosa faccio? Vi riassumo la giornata. La giornata internazionale dei Rom, oggi Salvini propone di radere al suolo i campi nomadi, Boldrini replica dicendo è inquietante, il Vaticano li definisce frasi assurde. La condanna di Strasburgo per il blitz alla Diaz, il PD attacca De Gennaro e dice vergognoso che sia presidente di Finmeccanica. Il rapporto della Guardia di Finanza, il fisco sono 8.000 gli evasori totali, irregolare poi un appalto su 3. Grecia, Tsipras va a Mosca ma sottolinea Atene ha chiesto prestiti a Putin, non aiuti. La strage di Ustica, la sentenza della Corte d'Appello di Palermo dice che il 19 fu abbattuto da un missile, i ministeri devono risarcire 81 vittime dell'Italia. Stati Uniti, ancora un afroamericano ucciso a sangue freddo da un poliziotto, l'agente è stato licenziato. Calcio, Coppa Italia in campo, Napoli-Lazio. Partiamo quindi da questo commento definito shock di Salvini, sul quale appunto chiedo le vostre riflessioni, le vostre opinioni, sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Questo commento del segretario della Lega sui campi Rom, e subito, come vi dicevo, è scoppiata la polemica. Radere al suolo, spianare con una ruspa tutti i campi Rom. L'idea di Salvini non è di certo nuova, ma l'espressione a dir poco colorita pronunciata proprio nella giornata internazionale di Rom e Sinti non poteva che innescare una polemica. Così il leader del Carroccio all'aria che tira. Cosa farei io? Do un preavviso di sfratto da qui a 6 mesi, perché non si fa niente in un quarto d'ora, non c'è la bacchetta magica, quindi da qui a 6 mesi io preannuncio la ruspa in tutti i campi Rom e io fra 6 mesi spiano. L'espressione viene condannata subito dalla Presidente della Camera Boldrini dopo il suo incontro con i rappresentanti dell'Associazione 21 luglio che si occupa proprio dei diritti dei Rom. Questo verbo lo trovo abbastanza inquietante, questo verbo radere. Io ritengo che i campi non debbano essere mantenuti, però se non ci sono i campi ci devono essere soluzioni abitative alternative. Poco dopo la controreplica, inquietante piuttosto che la Boldrini sia presidente della Camera, dice Salvini, il quale sottolinea io chiedo diritti e doveri uguali per tutti. Precisazione che però non placa la polemica, insorge la consulta Rom e Sinti, critiche arrivano dal PD mentre il Movimento 5 Stelle ricorda come nel 2009 fu proprio la Lega a finanziare i campi Rom per mano dell'allora ministro degli interni Maroni. Alessandra Scapisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E torniamo a parlare del blitz alla Diaz del 2001, dopo la condanna di ieri, vi ricordate, dell'Italia da parte della Corte dei diritti umani di Strasburgo per la violentissima irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz durante il G8 di Genova, continuano le reazioni. Oggi il presidente del PD Orfini ha detto che è una vergogna che l'ex capo della polizia De Gennaro, allora appunto capo della polizia, sia ora il presidente di Finmeccanica. Più morbida invece è la posizione di Renzi. La condanna inflitta ieri all'Italia dalla Corte di Strasburgo riapre le polemiche sul G8 di Genova. Il presidente del PD Matteo Orfini torna a puntare il dito contro l'allora capo della polizia Gianni De Gennaro, che per i fatti di Genova fu assolto dalla Cassazione nel 2011. Lo dissi quando fu nominato e lo ripeto oggi dopo la sentenza: trovo vergognoso che sia presidente di Finmeccanica, attacca l'esponente democratico. Con lui anche SEL e Movimento 5 Stelle chiedono le dimissioni di De Gennaro, voluto al vertice di Finmeccanica dal governo Letta e confermato dall'attuale esecutivo, sottolineano polemici i grillini. Sul caso preferisce non intervenire Matteo Renzi, che risponde invece a Luca Casarini. Il leader dei No Global gli aveva chiesto conto del suo silenzio dopo la condanna dell'Italia per le violenze alla Diaz. Quello che dobbiamo dire lo dobbiamo dire in Parlamento con il reato di tortura, e la replica del Premier. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma. E ora torniamo a occuparci del DEF, del documento di economia e finanza di cui abbiamo parlato diffusamente anche ieri, che ha suscitato uno scontro tra comuni e governo, ma si intravede forse una schiarita. Abbiamo dichiarato guerra a nessuno. Piero Fassino, presidente dell'Associazione dei Comuni, intervenendo ad effetto giorno, smorza i toni sullo scontro col governo in merito al DEF. Quello che i sindaci chiedono è un confronto innanzitutto sui bilanci del 2015. Il primo problema è che nel passaggio da IMU a TASI 1800 comuni hanno registrato un calo del gettito. Nel 2014 fu previsto per questo un fondo perequativo da 625 milioni e l'ANCI chiede che sia ripristinato. Il secondo problema sono i tagli alle città metropolitane, che per i criteri scelti vedono penalizzate Roma, Napoli e Firenze. In misure anche notevoli, come spiega il primo cittadino di Firenze, Dario Nardella, Mix 24. Mi sembra comprensibile il fatto che la città metropolitana di Bologna abbia il 5% di tagli, quella di Firenze 23% dei tagli. Poi c'è l'altro capitolo, quello dei tagli ipotizzati per tutti gli enti locali dal 2016. I comuni chiedono che non siano lineari. Fassino porta l'esempio della sua città. Torino ha dismesso negli ultimi 3 anni 400 milioni di sue partecipazioni o di dismissioni immobiliari. Alla città di Torino sono applicati i tagli esattamente come sono applicati a tutti quelli che delle dismissioni non ne ha fatta neanche una. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso spostiamoci all'estero. Oggi si è confermato un asse di cui si parlava già da tempo ultimamente tra Grecia e Russia. Alexis Tsipras rompe il fronte europeo del gas, aprendo la strada alla possibile partecipazione a un gasdotto russo-turco dopo lo stop al progetto South Stream nel Mar Nero. Questa è una delle conclusioni dell'incontro svoltosi a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier greco Alexis Tsipras. Atene potrebbe guadagnare ricavi supplementari dal transito del gas nel suo territorio, profitti utili a pagare i suoi creditori, ha sottolineato il presidente Putin. Senza contare che Mosca si è detta disponibile a partecipare ad eventuali programmi di privatizzazione di infrastrutture in Grecia, tra i quali primeggia proprio la messa sul mercato della rete di distribuzione del gas greco, un boccone molto appetito dal gigante energetico russo Gazprom, che nel 2013 c'era stata un passo dall'acquisizione. Le offerte di Putin, però, rischiano di far diventare Atene il cavallo di Troia dell'Unione Europea in campo energetico. Vittorio Darold, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora negli Stati Uniti, dove ci sono stati vari precedenti, purtroppo, vi ricordate, nei mesi scorsi, vari afroamericani uccisi da poliziotti a sangue freddo. Ora un nuovo caso, North Charleston, nel South Carolina, un agente ha ucciso un afroamericano sparandogli a sangue freddo. In un primo momento il poliziotto di 33 anni, bianco, ha dichiarato di aver agito per legittima difesa, poi però un video, la cui esistenza è stata svelata dal New York Times, ha mostrato che l'agente ha sparato all'afroamericano mentre quest'ultimo era in fuga. L'agente è stato quindi incriminato per omicidio, la vittima aveva 50 anni, poi ne parleremo. E ora in Francia, con lo scontro tra Marine Le Pen e suo padre. Sono lontani i tempi in cui padre e figlia sfilavano fianco a fianco, abbracciandosi affettuosamente e sorreggendo lo striscione del partito che lui aveva fondato e che lei ha contribuito a portare al successo. Ora in casa Le Pen è guerra aperta. La bionda Marie, presidente del Front National, ha posto il veto alla candidatura del padre Jean-Marie come capolista alle regionali della regione Provenza-Alpi-Costa-Azzurra. Il suo obiettivo, dice Marie Le Pen, è nuocermi e lei evidentemente non ha nessuna intenzione di permettere che accada. Negli ultimi giorni l'anziano leader, oggi presidente onorario del partito, ha continuato a ribadire alcune sue vecchie provocazioni, come quella delle camere a gas, che sarebbero un dettaglio della storia. L'ultima, in un'intervista a un giornale di estrema destra, è stata la difesa di un maresciallo capo della Francia collaborazionista con i nazisti. Il suo ruolo di presidente onorario non l'autorizza a prendere il partito in ostaggio, ha spiegato Marie Le Pen in un comunicato ripreso dalle Figaro. Per questo ha annunciato che nella riunione del 17 aprile si opporrà alla candidatura del padre. Se si tratta di difendere il partito, che è un po' suo figlio, Marie Le Pen è decisa a farlo a tutti i costi, anche se questo significa scaricare suo padre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ritorniamo sulle notizie italiane con il rapporto della Guardia di Finanza, secondo il quale appalti pubblici in Italia per 1,8 miliardi sono stati assegnati illecitamente. Ci sono frodi e sprechi per 4,1 miliardi, per il fisco sono 8.000 gli evasori totali. Allora sentiamo il colonnello Gianluca Campana, capo dell'ufficio tutela delle entrate della Guardia di Finanza, intervistato da Raffaella Calandra. Oltre 8.000 soggetti che pur svolgendo attività economica non avevano presentato la dichiarazione dei redditi. 13.000 sono stati anche denunciati per reati tributari, quindi per le ipotesi più gravi, in relazione al quale abbiamo proposto alle procure della Repubblica il sequestro di somme corrispondenti alle imposte evase per 3 miliardi e mezzo di euro. Chi sono questi evasori totali? I settori più colpiti sono in modo particolare quelli che riguardano il commercio al dettaglio, quelli che riguardano le costruzioni e i fenomeni di evasione fiscale internazionale, cioè l'operatività in Italia di stabili organizzazioni di imprese estere che operano nel nostro paese senza pagare le imposte, così come anche i casi di soggetti residenti formalmente all'estero ma che di fatto svolgono l'attività commerciale o professionale nel nostro paese. E adesso la strage di Ustica con la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, secondo la quale il D-19 che precipitò nel mare di Ustica appunto il 27 giugno 1980 con 81 persone a bordo fu abbattuto da un missile, quindi viene confermato, e lo Stato deve risarcire le famiglie delle 81 vittime dell'Itavia. Quindi sì ai ricorsi dei familiari delle 68 famiglie. Confermata la responsabilità dei due dicasteri del Ministero del Trasporto e quello della Difesa per non aver assicurato adeguate condizioni di sicurezza al volo. Ne parleremo più tardi con Andrea Purgatori, il giornalista del Corriere della Sera, che per primo aveva parlato di un missile, dell'ipotesi del missile che aveva colpito l'aereo. A proposito di aerei, per il pilota dell'Alitalia sospeso, vi ricordate, questi giorni dopo una lite con spari in famiglia, ieri sera c'è stato l'alcol test positivo in seguito a un incidente d'auto che ha fatto mentre viaggiava verso Roma, patente ritirata. Ancora guai per il pilota dell'Alitalia Maurizio Foglietti. Sospeso dal servizio dopo la denuncia per aver sparato la sera di Pasqua nella casa di famiglia a Todi in seguito a una lite col fratello, ieri sera mentre viaggiava verso Roma Foglietti è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla E45 all'uscita dallo svincolo di San Damiano di Todi. Risultato positivo all'alcol test durante i rilievi, i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero e gli hanno ritirato la patente di guida. Il tasso alcolemico era oltre i limiti di legge, anche se non particolarmente elevato. L'incidente, sull'accusata dinamica si sta ancora indagando, pare sia avvenuto durante una manovra di sorpasso. Lievemente feriti sia Foglietti sia il conducente dell'auto con cui si è scontrato, un giovane di 23 anni, cui sono stati riconosciuti 30 giorni di prognosi. Maurizio Foglietti, lo ricordiamo, era il comandante del volo di linea Alitalia col quale il 14 febbraio scorso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella raggiunse Palermo da Roma per una visita privata. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora capiamo che cosa, come prosegue la partita di Coppa Italia Napoli-Lazio. Mi pare di capire che siano ancora 0-0, Dario Ricci. Eh sì. sì, la partita non decolla direi, Roberta, tanto per rimanere in tema, perché siamo al 29esimo, ancora 0-0 tra Napoli e Lazio, ricordiamo il risultato che rimanendo così qualificherebbe. Intanto c'è il palo dei partenopei con una splendida punizione di Manolo Gabbiadini, il sinistro velenoso che ben conosciamo di Gabbiadini, che scuote il palo alla sinistra della porta laziale, quindi Napoli vicino al vantaggio, ma risultato ancora fermo sullo 0-0, uno 0-0 che qualificherebbe i partenopei. Intanto nel pomeriggio, nel recupero di campionato, è arrivato il successo per il Parma che con un gol di Varela ha battuto l'Udinese e che è tornata alla vittoria in campionato, pensate, una vittoria che mancava dal 6 gennaio. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, 30esimo di gioco al San Paolo, ancora 0-0 tra Napoli e Lazio. A dopo, grazie Dario Ricci, noi ci sentiamo tra pochi istanti, però leggo giusto velocemente alcuni dei tanti messaggi vostri che stanno arrivando su le dichiarazioni di Salvini sui Rom e la replica della Presidente della Camera Boldrini, sia sulla pagina Facebook di Effetto Note sia al 349-238-6666. Dice un ascoltatore: ha ragione Salvini, mandiamolo in Vaticano, i Rom, nessuno andrà più in chiesa, siete voi che montate la disinformazione. Così dice Francesco: Salvini purtroppo ha detto una cosa che pensiamo un po' tutti, in Italia la legalità è sempre un optional. E poi Patrizio: Salvini non vuole i campi, si sa e si sapeva, non ha mica detto che vuole ucciderli. Invece Silvano di Treviglio consiglia di radere a suolo con tutti i Rom dentro, insomma, vabbè. E poi lasciamo perdere questi messaggi, perché si possono avere opinioni pro e contro, ma mi pare veramente di andare oltre ogni limite. Poi Salvini, dice un altro ascoltatore, ha perfettamente ragione, a Milano la situazione è insostenibile, se non rade lui i campi Rom ci penseremo noi coi fucili. Diciamo c'è un po' di tensione, adesso proseguiremo tra poco con i messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte e sentiremo anche un ospite su questo argomento. E poi gli altri, aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Bene, adesso prima di proseguire con gli ospiti, di iniziare anzi con il primo ospite fra poco, vi ricordo tra pochissimo quali sono le notizie principali di oggi, perché so che tanti accendono magari in momenti diversi, quindi cerchiamo di aggiornare chiunque insomma accenda la radio, anche se vi ricordo che Effetto Notte inizia sempre alle 21. Poi invece Clotilde dice, a proposito delle frasi di Boldrini: non ho una grande stima per il Rom, ma sentire Salvini mi fa venire voglia di asfaltare lui e i suoi seguaci ignoranti e squallidi e da brivido. Insomma, molto messaggi un po' di questi toni da una parte e dall'altra. Andiamo sulle notizie. Partendo dal presidente del PD Orfini, che a proposito della condanna di ieri dell'Italia per quanto riguarda il blitz alla Diaz, ha detto contro De Gennaro, ex capo della polizia, una vergogna che sia in Finmeccanica, e Renzi ha detto la nostra risposta sarà il reato, introdurre il reato di tortura. Poi Salvini, che attacca appunto sui Rom, radere al suolo i campi dei nomadi, e Bufera, la presidente della Camera Boldrini, dice inquietante, il Vaticano parla di frasi assurde e stupide. Padoan, il ministro dell'economia, che dice l'obiettivo del DEF, del documento di economia e finanza, è meno tasse e più lavoro. E poi la Guardia di Finanza nel suo rapporto 2014 dice che regolare irregolare un appalto su tre, e per quanto riguarda il fisco 8.000 evasori totali ci sono. Negli Stati Uniti uccide un poliziotto un afroamericano mentre fugge, l'agente è stato incriminato e poi licenziato, è inchiodato da un video. E poi Ustica, Corte d'Appello di Palermo ha confermato il 19 fu abbattuto da un missile, le vanno risarcite le famiglie delle vittime. E adesso quindi parliamo del fatto che oggi è la giornata internazionale dei Rom e Sinti, e non è quindi un caso che sia venuta proprio oggi questa polemica così dura, pesante, questo botta e risposta sui campi Rom tra il segretario della Lega Nord Matteo Salvini e la presidente della Camera Laura Boldrini. Salvini che ha proposto, come vi dicevo, di radere al suolo i campi Rom, e la Boldrini che ha replicato dicendo che aveva incontrato tra l'altro oggi i rappresentanti dell'associazione 21 luglio, di cui tra poco parleremo, e che ha detto che appunto che sono frasi inquietanti. È intervenuto anche il Vaticano dicendo sono frasi stupide, assurde, poi dopo ve lo dirò più nel dettaglio, però cominciamo a sentire questo passaggio di Salvini. Cosa farei io? E cosa fanno alcuni sindaci della Lega dove amministrano al di là di lamentarsi? Cosa farei io al posto di Alfano o di Renzi? Do un preavviso di sfratto da qui a 6 mesi, perché non si fa niente in un quarto d'ora, non c'è la bacchetta magica. In Europa non esistono i campi Rom, hanno i diritti e i doveri di tutti gli altri cittadini. Quindi da qui a 6 mesi io preannuncio la ruspa in tutti i campi rom, ti organizzi, ti attrezzi, la casa la compri, l'affitti, la chiedi, fai il mutuo come tutti gli altri cittadini e io fra 6 mesi spiano, cioè, rado al suolo chiudere i campi rom. Tutti. Sentiamo adesso che cosa ha replicato invece la Presidente della Camera Boldrini. Questo verbo lo trovo abbastanza inquietante, questo verbo radere. Io ritengo che i campi non debbano essere mantenuti, ritengo che però se non ci sono i campi ci devono essere soluzioni abitative alternative. Quindi siamo d'accordo sul fatto che non ci debbano essere i campi, ma non perché questo significa poi annientare chi vi abita, ma questo deve significare far seguire poi una politica abitativa che sia come per tutti gli altri, né più né meno, tanto più che una buona fetta dei 160.000 stimati rom e sinti in Italia sono cittadini italiani. Dunque non vedo perché noi si debba fare una discriminazione né nell'un senso né nell'altro, quindi pari opportunità per tutti. Questo è in sintesi questo dibattito di oggi, con anche appunto l'intervento molto critico del Vaticano nei confronti delle frasi di Salvini. Salvini poi ha avuto la controreplica, ha detto inquietante che la Presidente della Camera sia la Boldrini e poi ha detto politiche abitative, non abbiamo le case per i bergamaschi, figuriamoci per i Rom. E allora coinvolgo in questo dibattito il Presidente dell'Associazione 21 Luglio, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'accoglienza. Carlo Stassolla, l'associazione 21 Luglio è un'organizzazione no profit, lo ricordo, che è impegnata nella promozione dei diritti umani di Rom e Sinti in Italia. Oggi voi siete stati accolti, no, dalla Presidente Boldrini proprio per la giornata internazionale dei Rom e dei Sinti, Stassolla. Sì, siamo stati accolti con una delegazione di 12 donne Rom e abbiamo presentato alla Presidente della Camera il rapporto annuale 2014 dell'Associazione 21 Luglio, un rapporto che fotografa quelle che sono le condizioni di vita delle comunità Rom e Sinti in Italia e quelle che sono state le politiche attuate dalle varie amministrazioni locali su tutto il territorio nazionale. In Italia sono circa 180.000 Rom e Sinti, giusto? Esatto, e di questi 35.000-40.000 vivono nei cosiddetti campi nomadi, quindi questo qua dal primo senso della misura vuol dire che 4/5 dei Rom in Italia vivono in abitazioni convenzionali, svolgono un regolare lavoro, mandano i bambini a scuola, frequentano le scuole superiori e le università. Cose che forse la gran parte delle persone ignorano, nel senso che non li vedono, che probabilmente si pensa che i Rom siano soltanto quelli nei campi. Ma secondo lei, Stassolla, perché c'è questo clima intorno ai Rom? Cioè c'è soltanto pregiudizio, c'è campagna elettorale che è quella di Salvini? O come dice qui qualche ascoltatore scrive, per esempio, è noto, dice alle cronache, che su 10 furti 8 sono opera di romeni, per non parlare dei furti di rame, questi sono dati delle questure, non opinioni dei cittadini, dice Paolo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che risponde. Sì, una cosa è la realtà, una cosa è la percezione che noi abbiamo, una percezione che è spesso dettata da frasi come quella di oggi, da amplificazioni di queste frasi fatte anche dai media. In realtà il numero di Rom in Italia è estremamente basso, tra i più bassi in Europa, e un recente studio del 2014 di un importante istituto americano ha per esempio appurato che l'Italia in Europa è il paese che ha il senso di ostilità verso i Rom più alto, pari all'86%, pur avendo una delle percentuali più basse. Quindi questo vuol dire che non è l'alto numero di Rom che incide, non è la crisi economica, visto che la Grecia e il Portogallo, che soffrono una crisi più forte della nostra, non hanno questa ostilità verso i Rom, ma è un radicato antiziganismo promosso soprattutto da esponenti politici e amplificato dai media, per cui abbiamo una percezione del fenomeno sicuramente molto più grande di quello che è poi nella realtà. Stassolla, questo per quanto riguarda i numeri, lei diceva che i 4/5 sono integrati, conducono una vita normale, però è possibile che qualche volta magari Rom che si trovano in questi campi, che non hanno magari altre possibilità di sopravvivere, eccetera, qualche furto, qualcosa, cioè c'è a volte anche il fatto di autoalimentare questa percezione che sì, si è. Questo fenomeno c'è, ma come c'è in un ambiente marginale. Noi dobbiamo pensare che il campo nomadi è una istituzione creata dallo Stato italiano a partire dagli anni 90, una realtà unica in tutto quanto il panorama europeo, È chiaro che nel momento in cui si vengono a creare dei ghetti istituzionali, delle enclave dove i diritti sono sospesi, dove le persone vivono precariamente, è chiaro che si sviluppi la criminalità. Questo non è un volerla giustificare assolutamente, ma è un voler dire che non appartiene alla cultura rom né a qualsiasi altra cultura la criminalità, ma la criminalità, o meglio la microcriminalità, è propria di chi vive in ambiente marginale, in ambiente lontano dalla città dove non c'è inclusione. Senta, a proposito della politica abitativa, evidentemente se continuano ad esserci questi campi, secondo lei è soltanto cattiva volontà della politica o non si riesce a trovare una soluzione diversa in Italia? No, in realtà è cattiva volontà della politica. Laddove c'è stata la volontà della politica, come nel 2014 per esempio nelle città di Padova, Messina o Alghero, i campi si sono chiusi e si sono superati. Noi non dobbiamo dimenticare che il campo è un grande affare per tutto l'indotto che ruota attorno ad esso. Nella sola città di Roma un rom che vive in un campo costa tra i 450 e i 900 euro al mese a persona, senza che nulla vada a rom, ma a tutto l'indotto che ruota attorno al sistema campi. In realtà ci sono grossi interessi economici, politici, perché il campo non venga chiuso, perché il campo non venga superato. Secondo lei, ultima cosa, proprio in sintesi, può essere facile poi riuscire a integrare persone che sono vissute a lungo in questo modo, cioè su diritti, ma anche su doveri? È chiaro che più il tempo passa più diventa difficile. Noi oggi abbiamo anche la terza generazione di persone che sono nate e che vivono nei campi. Sicuramente non è facile, bisognerà fare un percorso che però va iniziato, va affrontato, va discusso e ragionato con il mondo dell'associazionismo, con le comunità rom che devono anche loro assumersi le loro responsabilità, con gli amministratori locali. È un però percorso obbligato che siamo chiamati a fare. La ringrazio intanto allora, Carlo Sassolla. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. A lei. Invece ci spostiamo sulla strage di Ustica, si torna a parlare di questo, di uno dei tanti misteri d'Italia, uno dei più grandi, dura da 35 anni, anche se sentenze sono arrivate, processi contro sentenze, insomma una storia lunga e controversa. Oggi è arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, vi ricordate naturalmente è stata dall'aereo DC-9 dell'Itavia che nella notte del 27 giugno 1980, partito da Bologna per raggiungere Palermo, mentre sorvolava i cieli sopra Ustica, è precipitato in mare con 81 persone. Il motivo per cui precipitò, vi dicevo, è stato oggetto in questi 35 anni di inchieste, ipotesi, depistaggi senza fine. Oggi è arrivata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che dice prima di tutto quanto avvenne nei cieli del Basso Tirreno in occasione della strage di Ustica è da addebitarsi a un missile lanciato contro il DC-9 da un altro aereo che intersecò la rotta del volo Itavia e sono da escludere quindi ipotesi alternative come la bomba collocata a bordo dell'aereo, un cedimento strutturale. E poi in breve, dice ancora questa sentenza, lo Stato non garantì la sicurezza in volo del DC-9 e quindi dovrà risarcire le famiglie delle vittime. Ne parliamo con Andrea Purgatori. Buonasera Andrea. Buonasera, ciao, buonasera. Ciao, giornalista d'inchiesta, autore, sceneggiatore, ha avuto una lunghissima esperienza come giornalista d'inchiesta, di reportage sugli anni di piombo, sulle stragi, dal rapimento Moro, fino appunto alla strage di Ustica. E Andrea, tu sei stato il primo che ha fatto quest'ipotesi del missile lanciato contro il DC-9, no? Sì, sì, beh, insomma, diciamo che sono passati 37 anni. 37 anni, ho fatto male, la si matematica non è mia forte. Ormai con le inchieste, ci si può invecchiare con le inchieste che sono in corso in Italia su questi misteri. Però la sentenza di oggi, diciamo che tra l'altro io ho letto, sono 51 pagine, è una sentenza fatta molto bene, con grande attenzione, che insomma spazza via qualunque altra ipotesi, che peraltro era già stata spazzata via nel 1999 dalla sentenza ordinanza del giudice Priore. E diciamo che finalmente si fa giustizia anche nei confronti dei familiari delle vittime, che insomma dopo 37 anni avere un risarcimento dallo Stato mi sembra insomma il minimo sindacale. Una cosa soltanto prima di lasciarti di nuovo la parola, sì. Cioè il punto fondamentale, diciamo, di questa sentenza è che diciamo, lo Stato è responsabile di quello che è accaduto, perché non stiamo parlando di un aereo che volava nel Golfo Persico in tempo di guerra, stiamo parlando di un volo da Bologna a Palermo, e di conseguenza mi sembra legittimo che il Ministero della Difesa e dei Trasporti dell'epoca, diciamo, non abbiano vigilato su quello che è accaduto, indipendentemente dalle cause, che però vengono nuovamente ribadite, tra l'altro con una puntualità estrema all'interno della sentenza. C'è poco da discutere e non si torna più indietro. Tra l'altro, Andrea Purgatori, questo missile dovrebbe essere francese, perché lo disse anche l'allora presidente Francesco Cossiga, presidente del Consiglio della Repubblica era allora, sì. Cossiga, sì, disse questa lo cosa. Disse Cossiga, lo disse 25 anni dopo, lui all'epoca era presidente del Consiglio, come tu hai ricordato, e quindi, diciamo, la persona che aveva in mano gli strumenti migliori per poter sapere che cosa fosse accaduto. In realtà lui lo disse poco tempo dopo la sentenza di assoluzione dei generali dell'aeronautica per depistaggio, e, diciamo, in qualche modo si liberò la coscienza da quello che però io avevo sentito dire già pochi giorni dopo la strage, quindi diciamo che fu una sorta di ripensamento, o appunto un problema di coscienza da risolvere, quello di Cossiga. Adesso il punto fondamentale, credo che, insomma, lo Stato, al di là del risarcimento, si debba porre la questione dell'andare fino in fondo per accertare definitivamente la responsabilità. Calcola che i francesi hanno consentito soltanto l'anno scorso, quindi dopo 36 anni, ai magistrati italiani di andare a Parigi a interrogare i militari della base di Solenzara in Corsica, da cui si sospetta che sia partito l'aereo che poi ha esploso questo missile. Quindi la parola fine, definitiva, quando si può mettere su questa storia senza fine, Andrea Purgatori? La parola fine definitiva si può mettere nel giorno in cui Renzi andrà da Hollande e gli chiederà di girare pagina e di raccontare tutta la verità, perché è fuor di dubbio che questa sia stata una partita sempre giocata tra quattro soggetti, l'Italia, la Libia, perché diciamo che l'obiettivo era Gheddafi o aerei di Gheddafi che sorvolavano il Mar Tirreno, la Francia e gli Stati Uniti, che non possono non aver saputo, perché se io faccio un'azione di guerra sul Tirreno, diciamo sulla verticale dell'isola di Ustica, più o meno la sto facendo sulla verticale della sesta flotta americana. Su questo ci sarebbe molto da dire rispetto a quello che non è stato raccontato dagli americani, ma mi sembra ovvio che gli americani quantomeno fossero testimoni di quello che stava accadendo. Andrea, per chiudere, questa è la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, ci sarà un ulteriore grado, faranno ancora ricorso i ministeri? Sì, possono fare ricorso. Possono fare ricorso in Cassazione, ma sarà un ricorso che, diciamo, che soltanto in diritto e non in fatto, nel senso che potranno contestare dal punto di vista del diritto, se lo faranno naturalmente, quello che vogliono, dal punto di vista, diciamo, fattuale non possono più contestare la ricostruzione sulle cause di quanto è accaduto. Ci si augura che l'Avvocatura dello Stato, che improvvidamente qualche giorno fa ha fatto un'uscita per cercare nuovamente di allontanare questo momento, non solo diciamo, eviti l'umiliazione di andare in Cassazione, ma a questo punto chieda conto a tutti coloro i quali erano nei posti di comando nel 1980 di pagare individualmente e personalmente per il risarcimento, che, insomma, stiamo parlando di circa 100 milioni di euro. Io credo che sia giusto che chi è responsabile paghi. Naturalmente. Grazie Andrea Purgatori. Grazie a voi. Ciao Andrea. Di nuovo. Leggo ancora due dei tantissimi messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito delle dichiarazioni di Salvini sui Rom, sui campi Rom. Floriano dice: credo che certe considerazioni non si possono commentare. Giorgio scrive: fanno ridere tutti e due, Boldrini e Salvini, e le pari opportunità sono solo concretamente un manifesto, così come le ruspe. Non si fa nulla per riempire di significato il concetto di pari opportunità, né di rigore, ci vorrebbero entrambi. Un po' di ricreazione dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi. Stavo lanciando uno sguardo ai vostri tanti messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche attraverso gli sms al 349-238-6666. Questa polemica tra Salvini e Boldrini sui campi rom, vedo che ha suscitato anche molto le vostre reazioni. E c'è per esempio vediamo questo messaggio di Chiara che dice che pensa che l'ignavia colpevole dei nostri politici crea le basi per razzismo e rischi di rivolta sociale, un mix pericolosissimo, dice. D'altronde il buonismo da salotto è altrettanto deleterio. Poi sono molti quelli che sono d'accordo con Salvini, dice Claudio, alla provincia di Torino, perché se il Vaticano così solidale con i rom non apre dei centri di accoglienza al loro interno. E adesso però vi riassumo le notizie più importanti della giornata e poi andiamo su un altro tema. La giornata internazionale dei rom, Salvini propone di radere al suolo i campi nomadi, Boldrini replica dicendo inquietante, il Vaticano le definisce frasi assurde. Qui a Effetto Notte c'è stato come ospite il presidente dell'associazione 21 luglio che oggi è stata accolta appunto dalla Boldrini. La condanna di Strasburgo per il blitz alla Diaz, il PD attacca De Gennaro e dice vergognoso che sia presidente di Finmeccanica. Il rapporto della Guardia di Finanza, fisco 8.000 gli evasori totali, in regolare un appalto su tre. E poi la strage di Ustica, la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che dice il 19 fu abbattuto da un missile, i ministeri devono risarcire 81 vittime dell'Italia. Ne abbiamo parlato qui poco fa Effetto Notte con il giornalista Andrea Purgatori che tanto si è occupato di questo caso. Stati Uniti, ancora un afroamericano ucciso a sangue freddo da un poliziotto, l'agente è stato licenziato. Calcio, Coppa Italia, in campo Napoli-Lazio sempre 0-0 se non sbaglio, poi ci aggiorniamo con Dario Ricci. Sì, non si muove proprio. Invece cambiamo argomento, andiamo all'estero, l'avanzata dell'ISIS con l'assedio del campo profughi di Yarmouk in Siria, è veramente una situazione di grande emergenza, c'è questo grande campo profughi palestinese a 8 km dal centro di Damasco in Siria, dove dal 1 aprile si combatte una furibonda battaglia contro gli jihadisti dello Stato Islamico e del gruppo radicale al-Nusra. Pare abbiano il controllo dell'80% dell'area. Sui social network di ISIS sono stati già postati video con varie decapitazioni. Altri 7 palestinesi sarebbero stati fucilati. Ieri in serata il deputato arabo israeliano Ahmed Tibi ha dichiarato al quotidiano Arez che il movimento fascista di ISIS avrebbe ucciso 1.000 palestinesi e ci sarebbero 3.500 bambini bloccati lì in questo campo senza cibo. Ne vorrei parlare con Alberto Negri. Ciao Alberto, inviato speciale del Sole 24 Ore. Buonasera a tutti voi. Alberto, intanto questo campo profughi, mi spiegavi, non è quello che immaginiamo con tende, con servizi d'emergenza, è proprio un quartiere di Damasco. Sì, direi che è una vera e propria città. Tu dicevi prima circa 8 chilometri dal centro di Damasco, ma insomma ci si arriva in 20-25 minuti al massimo, ci sono periferie della capitale siriana molto più remote di quella di Yarmouk, che può essere considerato un vero e proprio quartiere dentro la città ormai molto tempo. Yarmouk fu fondato alla fine degli anni 50, quando nel 1948 arrivarono i profughi palestinesi reduci dalla sconfitta contro il nascente, anzi già nato Stato di Israele. E questi profughi erano circa fino a tre anni fa 120.000, in condizioni tra l'altro assai migliori rispetto a molti altri campi profughi del Libano o della Giordania. Yarmouk si era strutturata come un vero e proprio quartiere, non c'erano case o baracche, o perlomeno c'erano soltanto per gli ultimi arrivati, il resto erano palazzi, negozi. I palestinesi in Siria frequentavano scuole, università, potevano insomma lavorare, condurre esercizi commerciali, in un certo senso si sentivano più fortunati di altri e non avevano dovuto vivere altre fughe e migrazioni come per esempio i palestinesi in Iraq, costretti ad abbandonare le case dopo la caduta di Saddam Hussein. E invece adesso ci troviamo ormai da due anni in una condizione terribile, perché ne parliamo adesso col califfato, ma io sono entrato quando il califfato non c'era ancora l'anno scorso e stavano combattendo i palestinesi tra di loro, perché questa è una tragedia nella tragedia. Dopo che Khaled Meshaal e Hamas, il leader di Hamas, avevano abbandonato il regime di Bashar Assad, che li aveva peraltro ferreggiati, protetti per anni, le divisioni dei palestinesi si erano proprio trasferite qui a Yarmouk, con feroci battaglie tra fazioni, tra quelli che favorivano Bashar e quelli che erano contro il regime siriano. E poi già allora, l'anno scorso, si consumava un capitolo doloroso, non solo delle divisioni palestinesi, ma un capitolo umanitario terribile. ricorderete tutti anche quella foto di devastante efficacia in cui si vedevano migliaia e migliaia di persone che cercavano di fuggire da questo quartiere. E oggi è arrivato il califfato e insieme al califfato sono arrivate le decapitazioni, sono arrivati insomma tutti gli orrori che conosciamo. Ma in particolare, Alberto Negri, per chiudere, capire i motivi anche del perché colpiscano un luogo o certe persone anziché altri, come mai hanno attaccato questo campo profughi ormai città vicino Damasco? Allora, dentro Yarmouk tra l'altro ci stanno 18.000 persone, 3.500 sono bambini. L'Italia non è rimasta insensibile perché proprio oggi il Ministero degli Esteri ha deciso di stanziare 1,5 milioni di euro da destinare all'UNRWA e all'UNICEF, sì, per assisterli. E questa è già una notizia confortante rispetto a che cosa? Rispetto a quello che sta accadendo. Cos'è accaduto a Yarmouk? A Yarmouk combatteva il fronte di Jabhat al-Nusra, che è un fronte islamico radicale sostenuto dal Qatar e dall'Arabia Saudita. Qui devono essere arrivate direttive dall'alto perché quelli di Jabhat al-Nusra hanno ceduto le loro posizioni al califfato, allo Stato Islamico. Lo Stato Islamico è entrato senza combattere, ha preso queste postazioni e poi ha cominciato a combattere. Ma contro chi? Contro i palestinesi del fronte di liberazione popolare di Abbas, cioè contro una delle componenti dell'OLP che infatti si è schierato con il regime siriano oggi. E Hamas, che aveva preso una posizione contro Assad, adesso sta reagendo perché a Gaza hanno fatto degli arresti tra imam aderenti al califfato, cioè c'è anche il timore appunto che lo Stato Islamico si diffonda dentro i palestinesi e questo potrebbe aumentare ancora di più gli orrori di questa parte del Medio Oriente. Che voglia assoluta di distruzione. Grazie Alberto Negri. Grazie a voi. Ciao Alberto. Incredibile, insomma, una gran confusione, su tanti nomi, tante fazioni, viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, vi riepilogo in pochi secondi le più importanti, ho tanto da raccontarvi ancora. Diaz Orfini, presidente del PD, dice che De Gennaro, allora capo della polizia, durante quel blitz è una vergogna che sia presidente di Finmeccanica, e Renzi dice la nostra risposta sarà introdurre il reato di tortura. E poi questa polemica tra Salvini e Boldrini sui campi Rom, che Salvini ha detto oggi propone di raderli al suolo, il presidente della Camera Boldrini ha detto è inquietante, il Vaticano ha parlato di frasi assurde e stupide. Poi l'avete sentito, la sentenza della Corte d'Appello di Palermo sulla strage di Ustica conferma che fu un missile ad abbattere il D-19 che andò a fondo con 81 persone e che i ministeri della difesa e dei trasporti devono risarcire le vittime. Europa 24 notte. L'Europa è una grande casa, uno spazio privilegiato a garanzia dei diritti umani o è una proprietà privata dove è vietato l'accesso di chi non è desiderato? A questa domanda cerca di rispondere Sweet Home Europa, uno spettacolo teatrale che debutta questa sera al Teatro India di Roma, in scena fino al 26 aprile. È un affresco sull'Europa di oggi, ma anche un viaggio dentro l'anima di questo continente. Al centro del dramma c'è il tema dell'integrazione e la possibilità di accettare l'estraneo, lo straniero. Il regista Francesco Arcuri al microfono di Alessandra Schepisi. È un viaggio dentro un cantiere aperto, insomma, così come diceva qualche politico una decina d'anni fa, ma soprattutto è un viaggio di analisi di rapporti e relazioni che l'Europa cerca di costruire, o meglio, insomma, non costruisce con gli altri paesi, soprattutto quelli naturalmente del bacino del Mediterraneo, che è un po' il fulcro di questo strano testo che appunto, insomma, attraverso 12 quadri in realtà in modo assolutamente non narrativo ricostruisce un po' tutto il percorso della macro area del Mediterraneo a partire dalle tradizioni e dall'identità che poi tanto diverse non sembrano essere. Ma come è nata questa idea? Nel senso, qual era il desiderio proprio che c'è dietro? Davide Carnevali ha scritto questo testo nel 2011 ed effettivamente è un testo particolarmente interessante, ma diciamo non tanto per i temi che tratta, che sono dei temi che effettivamente sono importanti e poi straordinariamente tornati di grandissima attualità, insomma, alle minacce dell'ISIS, eccetera, insomma, che naturalmente nel 2011 non erano neanche ancora pensabili, insomma, c'erano altre questioni, altre problematiche. È il modo in cui vengono affrontate le questioni che rende il testo particolarmente interessante, perché appunto ci sono dei meccanismi evidentemente che si mettono in atto e che, se si ripetono in maniera, diciamo così, stanca e identica, per cui ad A corrisponde sempre B, evidentemente riesce ad essere anche un testo profetico, perché appunto le cose si ripetono e sono quasi sempre uguali, insomma, no? In fondo alla base c'è questo doppio rapporto che la politica e l'economia intrattiene naturalmente nelle relazioni, per cui politicamente e ideologicamente sembrano esserci delle contrapposizioni, ma poi economicamente i rapporti sono sempre diversi e non sono mai quelli che sembrano, e niente è mai quello che appare. Cioè, naturalmente vengono attraversate e toccate un po' tutte le questioni, dagli immigrati che tentano questi sbarchi clandestini sul nostro territorio, piuttosto che appunto il tentativo di ritorno di un immigrato nel proprio paese, dove però non riconosce più niente di quello che aveva lasciato, perché nel frattempo magari una rivoluzione o una guerra ha distrutto tutto, e nuove ideologie cambiano l'atteggiamento e il rapporto con le tradizioni. Quindi diciamo c'è questo senso di spaesamento che in fondo viviamo tutti, ma semplicemente in maniera diversa, perché in fondo noi occidentali abbiamo lo stesso identico rapporto con le tradizioni e con la nostra identità, cose in cui culturalmente ci conosciamo, ma poi facciamo fatica a rintracciare all'interno della vita quotidiana, così come è oggi nella nostra società, e così succede appunto all'immigrato che tenta di tornare, però torna in un luogo che non è più niente di quello che era quando se n'è andato. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E a proposito di immigrati, leggo ancora brevemente qualcuno dei vostri tanti messaggi che stanno arrivando sulla polemica innescata oggi da Salvini. Per esempio Alberto, che scrive tra pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349-238-6666, il radere al suolo, il campio rom non farà solo bene alle generazioni successive, ma anche a quelle attuali. In pochi anni di quei poveracci, come ogni essere umano di buona volontà, sapranno ben integrarsi in Italia. Renzo da Imperia invece dice: Salvini perde sempre un'occasione per stare zitto, che sia poco intelligente. Si chiede, insomma, chi è d'accordo e chi è contro. Sono tanti i vostri messaggi, però adesso ci spostiamo negli Stati Uniti, perché c'è stato purtroppo, come nei mesi scorsi, un ennesimo caso di un cittadino afroamericano che è stato ucciso a sangue freddo da un poliziotto. Questa volta è successo in South Carolina, a North Charleston, questa la città. Un uomo di 50 anni che è stato fermato, un afroamericano, da un poliziotto bianco perché aveva un fanalino rotto della macchina. Si vede questo video perché il poliziotto all'inizio aveva raccontato che era stata legittima difesa, e poi invece un video girato da un cellulare di un cittadino lo ha inchiodato. Non era assolutamente legittima difesa, quest'uomo stava scappando e lui gli ha sparato alla schiena ben 8 colpi. Marco Valsani, corrispondente da New York del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao, salve. Quindi questo nuovo caso, il poliziotto mi sembra che sia stato incriminato, poi è stato licenziato in tronco, lo ha detto il sindaco di North Charleston. In più, fra l'altro, parlava della possibilità d'ora in poi che la polizia in servizio per le strade della città sia dotata di body camera, probabilmente quindi una piccola telecamera sulla divisa, non so per quanto sarà utile, come sarà utilizzata. In ogni caso, ci racconti un po' i contorni di questa vicenda, Marco? Sì, questo per il momento sono i due sviluppi più significativi, e cioè grazie al fatto che è venuto fuori il video, come ricordavi, un video che incrimina il comportamento del poliziotto che registra questo omicidio a sangue freddo di quest'uomo di 50 anni che mentre scappava ha freddato appunto da 8 colpi di pistola alla schiena. Ecco, la conseguenza immediata di questo video è che il sindaco e il capo della polizia locale hanno immediatamente licenziato il poliziotto accusato. Il poliziotto è stato un 33enne agente è stato anche arrestato e accusato subito di omicidio, e il sindaco ha firmato un ordine esecutivo per appunto dotare tutti gli agenti di una microtelecamera addosso, che in questo serva come deterrente al rischio che si ripetano tragedie e omicidi di questa natura, che servono da deterrente proprio agli stessi agenti che non si sentano impuniti, che non si sentano autorizzati e impuniti. Marco, senti, perché tra l'altro si vede, questo forse è anche il più eclatante, questo video e questo caso, no? Di quest'uomo inerme che scappa in questo prato senza pare avere fatto nulla al poliziotto, e lui gli spara a distanza alla schiena ben 8 colpi, neanche uno per spaventarlo, 2. Insomma, è possibile che la polizia americana sia eccessivamente stressata, eccessivamente razzista? Qual è la questione, secondo te? Ma il dibattito è sicuramente aperto, ci sono sicuramente tensioni razziali, il rapporto tra le comunità afroamericane, in particolare le minoranze etniche, e gli agenti di polizia è sicuramente difficile, difficile, una storia difficile, e appunto delle politiche di sicurezza domestica che sicuramente sono da riformare, come ha riconosciuto lo stesso presidente Barack Obama. Ecco, se guardiamo al caso di Charleston, di North Charleston, una città popolare di 100.000 abitanti, per oltre la metà afroamericani, il dipartimento di polizia è per l'80% bianco, quindi diciamo anche la matematica rivela comunque delle situazioni difficili, squilibrate, che sono prone alla tensione e in cui spesso gli agenti a volte si sentono magari minacciati, altre volte si sentono probabilmente di avere in tasca una licenza di uccidere. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Voi. Ciao. A tra poco noi.